Componimento 156esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Ivi in terra, angelici costumi e celesti bellezze al mondo sole, tal che di rimembrar mi giova e dole, che quanti io miro par sogni, ombre e fumi. E vidi lagrimar que duo bei lumi ch'han fatto mille volte invidia al sole, ed udì sospirando dir parole che farian gire i monti e stare i fiumi. Amor, senno, valor, pietate e doglia facean piangendo un più dolce concento d'ogni altro che nel mondo udir si soglia. Ed era il cielo all'armonia sì intento che non se vedea in ramo mover foglia, tanta dolcezza avea pien l'aere e il vento. Fine del componimento.